L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti al nostro consueto ripasso delle notizie principali dell'ultima settimana. Cominceremo da sabato scorso 28 novembre e ci inoltreremo fino a ieri, giornata di venerdì 4 dicembre. Come sempre andremo a riascoltare i servizi antenne nei GR di Radio 24, ma poi avremo anche pareri importanti da colleghi del Sole 24 Ore. Parleremo di Obama, dell'annunciato aumento delle truppe in Afghanistan. Naturalmente parleremo anche di sport, perché ieri ci sono stati gli attesissimi sorteggi per i mondiali del 2010, ma diamo la precedenza alla politica. Infatti ancora una volta dobbiamo segnalare, annotare delle fibrillazioni, delle spaccature all'interno della maggioranza. Prosegue il dissidio, che forse a questo punto potrebbe addirittura essere insanabile, tra Fini e Berlusconi, e poi c'è sempre il tema discriminante, lacerante della giustizia. Cominciamo dalle ultime parole di Fini su Berlusconi, almeno quelle più scottanti della settimana. Risalgono ormai a un mese fa, ma in realtà diventano di dominio pubblico martedì. Questo è il servizio di Elisabetta Fiorito. Un fuori onda di Fini e la maggioranza va in tilt. La conversazione registrata il 6 novembre ad un convegno a Pescara su Paolo Borsellino finisce sul sito di Repubblica. Nel filmato Fini attacca il premier Silvio Berlusconi. Ha il consenso per governare, spiega il presidente della Camera, ma non l'immunità assoluta. Confonde la leadership con la monarchia, ma io gli ho detto attento che al monarca gli tagliano la testa. Poi Fini parla delle dichiarazioni del pentito Spatuzza, che definisce una bomba atomica. Nel pomeriggio si riunisce il PDL, la rabbia è palese. Berlusconi telefona ai partecipanti. Al termine Daniele Capezzone ricorda a Fini la posizione del partito sull'utilizzo dei pentiti e sull'uso politico della giustizia. Adesso tocca al presidente Fini dire agli italiani, dire al paese se è ancora d'accordo con quelle ragioni e con quelle posizioni. In serata Fini va a Ballarò. Il presidente della Camera è convintissimo che Berlusconi non c'entri nulla con la mafia, ma nega di essere un doppio giochista. Come dimostra quel filmato, le cose che dico in privato ho l'abitudine di dirle anche in pubblico. Se io perdessi totale fiducia nella magistratura, perderei fiducia nella democrazia. L'ho detto a Berlusconi, non c'ho assolutamente nulla da chiarire al riguardo. E allora tra poco parleremo anche di Spatuzza, che ieri è stato protagonista indiscusso a suo modo della giornata politica, ma ora insistiamo sul dualismo tra Fini e Berlusconi. In collegamento ci ha raggiunto Stefano Folli del Sole 24 Ore, che spesso ci accompagna sulle strade tortuose, litigiose, persino isteriche, come ci siamo detti altre volte, della politica italiana. Buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora Stefano, io francamente non vedo grosse novità, insomma, uscite da questo fuori onda di Fini, nel senso che ormai i cosiddetti distinguo del Presidente della Camera nei confronti di Berlusconi sono all'ordine del giorno, a meno che, e in questo voglio chiederti se sei d'accordo, non sia una differenza quella che hanno osservato alcuni osservatori, e cioè che questa volta l'uscita di Fini ha indebolito proprio lui e non Berlusconi. Tu che cosa ne pensi? Ma io penso, l'ho anche scritto sul Sole, che questa vicenda del fuori onda sia un po' come la pistola di Sarajevo, cioè un incidente, un fatto, ma anche un pretesto che dà la spia all'esplosione di una serie di tensioni politiche che ci sono all'interno del centrodestra, all'interno della maggioranza, e che sono dovute al dualismo tra Berlusconi e Fini su tutta una serie di temi politici. Ma soprattutto direi una visione dei rapporti istituzionali, quindi diciamo anche delle questioni legate al rispetto costituzionale tra diversi organi e poteri dello Stato. Questo è un po' il punto di fondo, e naturalmente quando abbiamo a che fare con vicende come le accuse di mafiosità, la deposizione di questo personaggio, questo pentito, questo determina un aumento delle tensioni, e in questo caso specifico sono abbastanza d'accordo, Fini si è un po' indebolito, diciamo, nella vicenda, nel suo rapporto difficile, complesso con Berlusconi, perché quello è stato un incidente, quello fuori onda, e indubbiamente ha dato esca un po' ai suoi avversari all'interno del popolo di libertà. stato un errore da parte di Fini. Perché se appunto vogliamo dare credito anche alla tesi che tu ci hai detto, cioè di un Fini che si è in parte indebolito per questa sua uscita più o meno pilotata, a questo punto non lo sapremo mai, direi che ha detto una cosa interessante, secondo me anche Marcello Sorgi l'ha scritta in realtà sulla stampa qualche giorno fa, e cioè che il punto fondamentale a suo giudizio non è tanto la disputa tra Fini e Berlusconi, ma il fatto che Fini ormai da più tempo e su più argomenti come l'immigrazione, la giustizia, il testamento biologico, probabilmente dice cose che sono completamente diverse dall'opinione generale degli elettori del suo partito, quindi c'è quasi un problema di dissociazione, insomma, tra gli elettori del PDL e uno dei suoi fondatori. Sì, questo è vero, ma sono due concezioni del modo di essere destra in Italia in questo momento. È chiaro che la posizione di Berlusconi è largamente prevalente sul piano politico e anche elettorale, se dobbiamo dar retta ai sondaggi che vengono pubblicati, uno Ipsos proprio sul nostro giornale, dove si dimostra che il consenso elettorale di Berlusconi è molto ampio ancora. D'altra parte il berlusconismo appartiene a una stagione lunga, complessa. Qualcuno dice è una parabola che sta andando verso la sua naturale, ovvia conclusione. L'Economist gli ha chiesto di andarsene a Berlusconi in questi giorni, insomma la sua parabola sembra finita. La stampa straniera ha detto cose tremende su Berlusconi proprio nel corso degli anni, ma il punto di fondo è che Fini chiaramente pensa a un centrodestra che domani dovrà comunque sopravvivere al suo padre fondatore, cioè a Berlusconi. Questo non significa necessariamente che Fini punta a una successione, non credo che ci siano le condizioni neanche per immaginare che oggi Fini possa essere il successore di Berlusconi, però indubbiamente quando Berlusconi, quando sarà, uscirà di scena, ci sarà un generale riassetto degli equilibri politici anche nell'area di centrodestra, e a quel punto queste posizioni istituzionali di Fini, che oggi sono sicuramente minoritarie nel PDL, potranno trovare un eventuale nuovo diritto di cittadinanza. Ecco, e per restare al presente, naturalmente lo scontro tra Fini e Berlusconi va necessariamente inquadrato anche nel contesto generale della giustizia, che è un po' il tema caldo e in fondo il nervo scoperto da sempre di Berlusconi. L'ottavo giorno. Dicevamo della giustizia e dei processi che riguardano Berlusconi o comunque persone a lui vicine in questi anni, sia in campo politico che in campo economico, come ad esempio Marcello Dell'Utri. È in corso il processo di appello per concorso esterno in associazione mafiosa per il senatore del PDL, e ieri è stato il giorno della testimonianza di Gaspare Spatuzza, il pentito, che con le sue rivelazioni, poi bisognerà capire se affidabili o meno, ci ha fatto ritornare al 93, agli anni delle bombe della mafia e dell'imminente discesa in campo proprio di Berlusconi. Sentiamo sulla deposizione di Spatuzza Raffaella Calandra, ieri da Torino, in diretta nel GR delle 13. Mezz'ora dopo l'inizio del suo interrogatorio al processo d'appello contro il senatore Marcello Dell'Utri, Utignusu ha già ripetuto dunque in aula i due nomi eccellenti fatti nei verbali e indicati come i referenti politici del clan della stagione delle stragi, con queste parole. Vengono fatte in nome dei due soggetti di Berlusconi, e qui gli venne a dire a Graviano se era quello del canale 5. Sì. Graviano mi disse che era quello del canale 5, aggiungendo che tra cui c'è di mezzo uno suo compaesano, sì, Dell'Utri. Queste sono persone serie, non come i crassi dei socialisti che si sono presi i voti, dice, e poi ci hanno fatto la guerra. Così ancora parlava Madre Natura, alias Giuseppe Graviano, secondo il racconto di Spatuzza, che riferisce di un incontro in via Veneto a Roma. Dovevamo fare un attentato ai carabinieri per dare il colpo di grazia, ricorda ancora il pentito, secondo cui in quel momento Cosa Nostra si doveva portare dietro dei morti, così chi si doveva dare una smossa lo faceva. Siamo nella 93. Da quegli attentati in via Palestro, a Firenze, poi l'Olimpico a Roma, ne avrebbero avuti, dice, tutti dei benefici, a cominciare dai carcerati. Per questo Graviano aveva spiegato che dovevano esserci dei morti che a loro non appartenevano, cioè civili, come in via dei Georgofili. A Roma dovevamo fare un attentato come nemmeno i talebani, ma per grazia di Dio, ha commentato poco fa il boss, che è quello che uccise Don Puglisi e che ora si è convertito, dice, il telecomando non funzionò. Abbiamo sempre in collegamento Stefano Folli del Sole 24 Ore. Stefano, ti vorrei chiedere così uno sforzo di sintesi e di ordine su queste cose complicate della giustizia, perché I pezzi del mosaico sono molti, ci sono le dichiarazioni di Spatuzza che abbiamo appena sentito, c'è il processo di appello a Dell'Utri, ci sono quelli che ripartiranno a breve o potrebbero ripartire su Berlusconi, le voci addirittura per ora smentite di nuove inchieste di mafia sul Premier, sul Presidente del Consiglio, e poi ci sono i provvedimenti in Parlamento sul processo breve e legittimo impedimento. In tutto questo caos legato alla giustizia che agita il Parlamento e anche fuori dalle aule del Parlamento, secondo te, insomma, che cosa può succedere nelle prossime settimane? Ma penso che dobbiamo aspettarci di vivere ancora a lungo dentro questo stress dei processi che riguardano Berlusconi, avendo il tema del rapporto conflittuale tra governo e magistratura, tra politica e giustizia, il fulcro di una situazione che non vedo come possa essere risolta e avere uno sbocco positivo in tempi brevi. La questione del legittimo impedimento può, diciamo, sospendere alcuni effetti particolarmente gravi, diciamo, di questo stillicidio di processi, di rivelazioni e quant'altro. Naturalmente è una, come dire, è una toppa che non risolve il problema, perché è chiaro che peserà comunque sul Presidente del Consiglio il sospetto di essersi sottratto a un giudizio su questioni anche molto gravi, come abbiamo visto e sentito. E quindi tutto questo rende questa stagione, che dovrebbe essere dedicata alle riforme, dovrebbe essere dedicata a un buon governo per la condizione economica del Paese, diventa invece un percorso a ostacoli in cui si consuma la stessa maggioranza che esiste, che il Parlamento è ampia, che continua a esistere nel Paese, si consuma su questo terribile cortocircuito che non ha speranza al momento di essere risolto. Eppure ci sono stati anche in questi giorni pezzi importanti, anzi i vertici del Partito Democratico, da Bersani a Letta, che se non proprio una porta, almeno una fessura sul piano della giustizia a Berlusconi l'hanno aperta. Come leggi questo tentativo, insomma, perché la destabilizzazione non può convenire a nessuno. Noi non ci possiamo permettere il lusso di una crisi politico-istituzionale così grave, dovuta ancora una volta a cause extrapolitiche. Lo ha capito benissimo il Presidente della Repubblica, che infatti ha detto delle parole molto chiare al riguardo, e lo stesso Bersani è stato molto prudente, ha fatto capire che non si può prendere per oro colato quello che dice uno Spatuzza, ci vogliono dei riscontri molto, molto precisi, molto approfonditi, e soprattutto non si può lasciare appesa la Repubblica, con tutto quello che significa in termini di, insomma, precarietà istituzionale, non si può lasciare appesa alle parole di un collaboratore di giustizia di questo tenore, di questo calibro. C'è poi invece un'altra questione politica di tutt'altro segno, completamente diversa dagli intrighi della giustizia, che è arrivata in questi giorni e ci è rimbalzata in Italia dalla vicinissima Svizzera, perché da quelle parti è usanza fare referendum praticamente su tutto, e domenica il quesito sul quale gli svizzeri erano chiamati a pronunciarsi era quello se volevano o meno aumentare il numero di moschee nel loro paese. Sentiamo il corrispondente del Sole 24 Ore dalla Svizzera, Lino Terlizzi. Il governo svizzero si dice deluso, le associazioni delle imprese elvetiche temono ripercussioni sui rapporti economici con i paesi islamici, le chiese cristiane pure sono critiche, i verdi studiano la possibilità di un ricorso alla Corte Europea di diritti dell'uomo. Crea sconcerto nella stessa Svizzera il voto con cui la maggioranza dei cittadini elvetici in referendum ha detto no a nuovi minareti. In Svizzera i musulmani sono stimati in un numero compreso tra 300 e 400 mila su 7 milioni e mezzo di abitanti. Non vi sono state sin qui particolari tensioni, le moschee sono molte, i minareti con le caratteristiche torri sono 4, ma la destra populista ha voluto dare un segnale preciso, ha definito i minareti un segno di potere islamico, non si è accontentata delle leggi vigenti che pure già limitano per questioni urbanistiche tale tipo di costruzioni. Ha ottenuto un'inattesa doppia maggioranza di votanti e di cantoni, andando quindi a toccare norme che hanno anche un assetto costituzionale. Una sconfitta dura per il governo di Berna, per i partiti di centro e di sinistra che si erano tutti opposti al divieto ai minareti. Un voto che è figlio delle contraddizioni che percorrono non solo la Svizzera ma molti paesi europei. Il governo di Berna per ora non può che adeguarsi al voto, cercando di studiare nel contempo come non far salire troppo la temperatura nel rapporto con le comunità islamiche. Allora, siamo sempre collegati con Stefano Folli del Sole 24 Ore. Ti vorrei chiedere un commento sul voto svizzero e poi sulla Lega, che subito si è gettata a pesce, diciamo così, sul no degli svizzeri, invocando un referendum anche dalle nostre parti. Ma guarda, sulla Svizzera loro seguono la loro logica, in questo momento non ho niente di particolare da dire sugli svizzeri. Sulla Lega mi sembra evidente, siamo vicini alle elezioni regionali, la Lega usa tutti gli strumenti, tutti quelli possibili, per raccogliere qualche voto in più. Mi sembra che sia questo il senso di un tentativo di imitazione della Svizzera, che poi in realtà non ha possibilità di concretizzarsi, no? Non ci sono referendum all'orizzonte del nostro ordinamento che possono essere paragonabili a quello svizzero. Grazie a Stefano Folli, il collegamento non è stato sempre impeccabile, però spero e credo, insomma, che il senso del suo ragionamento si sia comunque capito. Per la politica ricordo che oggi c'è il No B-Day, la manifestazione dichiaratamente, palesemente anti-berlusconiana. Credo che sarà interessante soprattutto verificare le conseguenze all'interno dell'opposizione, in particolare nel Partito Democratico, che sarà la manifestazione, ma in ordine sparso, come si dice in politica, a titolo personale. Ora, ultimi minuti prima della pausa per un po' di notizie di economia. Prima di tutto i numeri sulla disoccupazione che sono stati resi noti martedì dall'Istat. Sentiamo Anna Marino. La disoccupazione è stata spesso definita nei mesi scorsi come il punto dolente della ripresa. A conferma che il nodo è ancora presente sono arrivati oggi i dati dell'Istat. A ottobre la disoccupazione, secondo l'istituto, ha segnato un picco dell'8%, in salita costante non solo rispetto al mese precedente, quando era pari al 7-8%, ma anche rispetto all'anno scorso, quando era già al 7%. E per la prima volta dal 2004 il numero dei senza lavoro a ottobre ha sfondato la soglia dei 2 milioni. Ci sono infatti 39.000 disoccupati in più rispetto a settembre, ben 236.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2008. In sofferenza soprattutto i giovani, si sfiora quota 27%, ma questi dati fanno il paio con quelli sull'occupazione che, secondo l'Istituto di Statistica, regge l'impatto della crisi economica grazie all'uso delle misure di sostegno come gli ammortizzatori sociali. A ottobre, secondo l'Istat, il numero degli occupati infatti è rimasto invariato rispetto a settembre, anche se nel confronto con l'anno scorso si sono persi 284.000 posti, un andamento stabile da luglio, dopo mesi di progressiva discesa con la cassa integrazione che, secondo l'Istat, ha frenato il calo degli occupati. Ieri, a ulteriore supporto dei numeri dell'Istat, è arrivato anche il rapporto del Censis, che in estrema sintesi dice cose molto importanti, e cioè che 3 famiglie su 10 hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, mentre viene confermato il calo pesante di posti di lavoro. Ne sono stati persi 378.000 nei primi 6 mesi del 2009. E visto che parliamo di economia, non possiamo dimenticare, non possiamo trascurare la più importante azienda italiana, cioè la Fiat. C'è il destino appeso in bilico dello stabilimento di Termini Imerese e si prevedono anche delle agitazioni. In settimana c'è stato un importante incontro del quale ci aggiorna Valeria De Rosa. L'incontro non poteva che essere interlocutorio, seduti allo stesso tavolo sindacati e Ministero delle Attività Produttive per definire il quadro di Termini Imerese e preparare il vertice con il numero uno del lingotto. Alla fine governo e rappresentanze sembrano ritrovarsi dalla stessa parte. Il punto è aumentare la produzione, come sottolinea il segretario generale della UILM, Antonio Regazzi. In Italia si producono solamente 650.000 vetture e siamo il secondo paese industrializzato d'Europa. Tutti producono più di noi. Noi chiediamo che sia fatto chiarezza su questo. Anche l'esecutivo prende atto dei numeri e vuole muoversi con l'obiettivo di aumentare la produzione. C'è tempo fino al 21 dicembre per lavorarci sopra, ha detto Scajola. Bisogna anche capire quali investimenti siamo disposti a fare, avrebbe aggiunto il ministro. Insomma, qualche segnale di distensione c'è, anche se i margini di manovra sono stretti. E non solo su Termini, un polo non competitivo in partenza, secondo Fiat, a causa dei costi di logistica e la mancanza di infrastrutture. Ma anche su Pomigliano d'Arco il capitolo non è ancora stato aperto, ma in ballo ci sono 5.000 operai. L'ottavo giorno. La terza parte dell'ottavo giorno di oggi sarà dedicata all'Afghanistan e a quella che è stata l'accelerazione improvvisa, ma in fondo preventivata, che ha impresso e che imprimerà soprattutto per i prossimi mesi il presidente americano Obama. Per parlare di tutto questo abbiamo in collegamento Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Alberto, lo ricordo, recente vincitore anche del premio dedicato alla memoria di Maria Grazia Cutuli, quindi giornalista del Corriere della Sera, lo ricordo, uccisa in Afghanistan nel 2001 agli albori della guerra, quindi Negri a tutti i galloni per parlare a pieno titolo di Afghanistan e di tutto questo quacervo poi di situazioni che sono connesse. Prima però di affrontare la discussione con Negri, sentiamo proprio che cosa ha detto martedì al popolo americano e in fondo a tutto il mondo Obama in questo servizio di Cristina Carpinelli. Commander in chief, I have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan. After 18 months our troops will begin to come home. I do not make Non ho preso questa decisione con leggerezza. Sono le 20 a West Point, quando Barack Obama comunica all'America che stanno per essere inviati altri 30.000 soldati in Afghanistan. Il dispiegamento avverrà entro i prossimi 6 mesi. L'annuncio ufficiale è stato dato ieri sera. Il presidente Obama ha parlato davanti a centinaia di militari, aggiungendo che la missione finirà nel 2011. A quel punto si torna a casa. L'obiettivo, ha spiegato Obama, sarà quello di mettere in sicurezza la popolazione nelle aree maggiormente a rischio e riconquistare alcune zone occupate dai talebani negli ultimi mesi. Attualmente gli Stati Uniti hanno circa 68.000 soldati nel paese, che saliranno così a oltre 100.000 prima della prossima estate. Per rendere sicuro l'Afghanistan c'è bisogno dell'aiuto degli alleati, che dovrebbero inviare un numero tra 5.000 e 10.000 uomini in tutto. Alla Francia in particolare sarebbero stati richiesti 1.500 uomini, 2.000 alla Germania, 1.500 all'Italia e 1.000 alla Gran Bretagna. Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha già fatto sapere che se ne parlerà nella conferenza internazionale sull'Afghanistan a Londra il 28 gennaio. Tra poco parleremo anche del comportamento e delle scelte fatte dagli alleati, Italia compresa. Io ho sentito, ho letto che invece molti hanno definito il discorso di Obama addirittura il più importante di questo suo primo anno di presidenza. Io mi limito a osservare che di solito quando si parla di Obama o c'è da giudicare cose fatte, dette da Obama, c'è sempre in giro troppa enfasi. Un anno fa era in fondo il messia che poteva risolvere i problemi del mondo. Oggi c'è quasi uno sport preferito, che è quello di eccedere nelle critiche nei confronti di Obama, e anche e soprattutto questo nuovo impegno americano in Afghanistan non è stato risparmiato appunto dalle voci critiche di protesta. Alberto Negri, al di là delle tifoserie, a tuo giudizio la scelta di Obama dal punto di vista sia militare che politico è giusta? Era l'unica che poteva prendere? Ma dunque, prima di tutto aveva una scelta obbligata, che era quella in qualche modo di rispondere alle richieste fatte dai capi militari americani, in particolare dal generale McChrystal, che aveva chiesto un aumento delle truppe di 40.000 uomini. Era difficile per Obama rispondere di no alla richiesta di un comandante militare supremo in una situazione come quella afghana, dove quest'anno gli americani hanno perso oltre 200 uomini. Quindi da una parte l'aumento delle truppe era prevedibile per non entrare in rotta di collisione con i militari, altrimenti ci sarebbe stata soltanto un'alternativa, quella del ritiro pure semplice, secco, a breve. Quindi da un certo punto di vista era una scelta obbligata. Dall'altra parte però vediamo che lo stesso presidente americano stabilisce dei paletti molto, molto forti. Il primo di tutto è il ritiro, l'inizio del ritiro fissato per il 2011 da completare entro il 2013, e su questo potremo tornare, su questo, su come è stata presa questa cosa in Afghanistan. La seconda è importantissima, cioè qual è l'obiettivo di questo aumento delle truppe? Quello di eliminare Al-Qaeda, ma non di eliminare i talebani. Quei talebani in qualche modo si procederà con la reintegrazione, con cose di questo tipo, in pratica ci si prepara a trattare anche con i talebani, e questo è l'altro punto fondamentale. La terza invece, il terzo punto è una domanda: a chi lasceremo l'Afghanistan domani? Alberto, non so se vuoi rispondere tu stesso alle domande che ti sei posto e che ci hai girato. Per molti la scelta di Obama è comunque piuttosto azzardata, perché insomma, mette sul piatto un'ipotesi di successo poi americano in Afghanistan, stato che nella storia non è mai stato praticamente conquistato. Oltre a commentare questa cosa che ti ho appena detto, ti chiedo un'altra cosa. Io francamente non riesco a vedere grosse differenze nella strategia di Obama rispetto a quella di Bush. Non so, forse mi sbaglio io, o veramente non c'è poi grossa differenza nella linea americana in Afghanistan? No, non ci sono, in effetti. È proprio così. Tant'è vero che... Però a Bush non si risparmiavano critiche, invece ad Obama, tutto sommato, no? Si tende a dare più fiducia, non lo so, ho questa impressione. Ci sono anche qui due cose da osservare, secondo me. La prima è che questo discorso di Obama è stato in buona parte applaudito dagli stessi repubblicani, quindi ovviamente va nella linea caldeggiata dai repubblicani, quello di un aumento delle truppe e di una via militare in Afghanistan. La seconda è che se Obama riceve tutte queste critiche è perché lui ha anche, come dire, dato aspettative crescenti, attenzione, non solo sull'Afghanistan, ma in generale riguardo del mondo musulmano. È stato lui a fare il famoso discorso nei confronti dell'Iran, a mandare un messaggio ad Ahmadinejad e poi rivolgersi per il Capodanno di Nowruz del 31 marzo direttamente al popolo iraniano. Ma è stato anche lui, allo stesso tempo, che ha balbettato delle critiche un po', come dire, imbarazzate quando c'è stata la rivolta contro il voto di giugno in Iran stesso. Cioè, attenzione, che poi il discorso che fece al Cairo di grande apertura verso il mondo musulmano non sia stato seguito da mosse concrete è molto chiaro, basta vedere lo stallo sulla questione israelo-palestinese. Insomma, mi pare che una parte delle critiche siano quelle derivanti da una delusione un po' generale avuta da questo presidente in questi primi mesi. D'altra parte non ci si poteva aspettare che avesse lui la bacchetta magica per risolvere conflitti che lui non aveva aperto, l'Iraq e l'Afghanistan. La sua strategia mi sembra molto chiara, è quella di chiudere queste due guerre. Ecco, non c'è che dire che il complesso, che il mosaico sia molto complesso. Tra l'altro, tra poco vorrei parlare appunto anche di queste date, di questi paletti che ha posto Obama sul ritiro a partire dal 2011. Nel frattempo Obama ha giustamente, credo, chiesto aiuto anche agli alleati della NATO. L'Italia ha subito aderito positivamente, manderà 1000 soldati entro la fine del 2010. Sentiamo proprio le parole del ministro della difesa Ignazio La Russa ai microfoni di Radio 24 giovedì mattina. Preciso che io non ho fatto numeri, anzi ribadisco che i numeri esatti avverranno dopo che il ministro Frattini avrà incontrato il segretario di Stato americano, la signora Clinton. Certamente rispetto alle anticipazioni che venivano da più fondi, ho detto qual è la entità attorno alla quale si discute, senza mai nominare il numero 1000. Ma non è quello il problema, mi sembra che la cosa più importante, e lo riferirò in Parlamento non appena sarà fissata l'occasione in cui possa io farlo come ho sempre fatto, la cosa più importante è che gli italiani, il governo italiano intende sì rispondere in maniera importante alla attesa che è da parte della NATO e degli Stati Uniti d'America, ma lo intende farlo a ragion veduta, e cioè nel momento in cui al di là dell'invio di rinforzi ci sia un contesto, un progetto, un programma che consenta di accorciare i tempi della durata della missione e consenta di operare in un quadro, io mi auguro il più possibile nuovo, per affrontare e risolvere in un tempo non infinito la questione Afghanistan. Abbiamo ancora un paio di minuti e almeno due domande sul tavolo. Cominciamo proprio dal comportamento italiano, dalla scelta italiana di mandare altri 1000 soldati, poi verranno compensati dal rientro da altre missioni all'estero. Questo è bene chiarirlo. Alberto Negri, mi sembra che la scelta italiana, che poi è stata ratificata ieri al vertice della NATO, spicchi in maniera piuttosto decisa rispetto invece al comportamento, ad esempio, di Germania e Francia, che per il momento non hanno preso decisioni. Obama ci ha ringraziato calorosamente, e ci mancherebbe, aggiungo io, ma come giudichi complessivamente la scelta italiana anche nel quadro dei rapporti con Washington? Ma dunque, l'Italia mi sembra che abbia risposto in maniera piuttosto consistente alle richieste americane. 1000 uomini non sono pochi, e devo dire che dalle parole del ministro della difesa italiano La Russa emerge anche qualche preoccupazione, però, cioè che questo invio delle truppe sia seguito da un progetto, da un programma. Ma se vogliamo stare alle cose concrete, qual è il vero problema e perché per esempio Germania e Francia esitano? Perché quando si chiede a degli altri paesi delle truppe, bisogna pur condividere con questi paesi alcune decisioni. E non solo e non tanto forse quello di un progetto, di un programma che è molto ristretto rispetto a prima. Qui non si parla più di ricostruire l'Afghanistan, del national building, si parla in realtà di mettere in sicurezza la popolazione e il paese, cioè già si abbassano gli obiettivi rispetto a prima, non si parla più di esportare democrazia, tanto per dirci. Ma c'è qualche cos'altro. Germania e Francia esitano perché gli americani non hanno fatto partecipe la NATO e questi paesi segnatamente delle decisioni militari prese. Per esempio il generale McChrystal è stato messo a quel posto senza neanche comunicarlo, se non nel giorno stesso in cui è stato nominato agli alleati. Ecco, queste sono le cose che probabilmente oggi frenano gli altri alleati della NATO. Alberto, rischiamo di sforare, però in 30 secondi ti voglio chiedere un commento su una questione rimasta in sospeso, cioè quella del ritiro, perché Obama ha anche cominciato a segnare delle date di progressivo rientro delle truppe americane dal 2011. Non c'è contraddizione invece con un aumento attuale di uomini? Guarda, sarò in qualche modo sintetico su questo. Come la pensano i talebani, ma in generale anche gli afghani, su questa questione? La pensano in questo modo, e quando l'Occidente manda delle truppe in questi luoghi forse dimentica quello che è un detto che loro usano spesso rivolgerci. Dicono sempre: voi occidentali avete l'orologio, noi invece abbiamo il tempo. E quindi fissare entro il 2011 l'inizio del ritiro e il ritiro entro il 2013 in qualche modo dà una sorta di di data alla guerriglia per continuare le proprie attività. Molto chiara la lapide che ci hai fornito in chiusura, Alberto. Ringrazio Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. L'ottavo giorno. In quest'ultima parte del programma, più che un riepilogo della settimana, faremo un riepilogo delle ultime ore di avvenimenti e di fatti. Il pretesto ci arriva dallo sport, peraltro in una settimana davvero succulenta. In ordine sparso voglio ricordare l'incidente in macchina di Tiger Woods, il grande golfista, con tutto poi la scia di accuse, scuse, storia di corna, eccetera. Poi a proposito di golf, non possiamo dimenticare la Coppa del Mondo vinta per la prima volta nella storia dall'Italia, e visto che parliamo di record, dagli Stati Uniti arriva un record davvero negativo, credo, su scala mondiale. È quello dei Nets, squadra della NBA, che ha raccolto la bellezza di 18 sconfitte su 18 gare. Ma per tutti non c'è dubbio, il fulcro della settimana è stato ieri in Sudafrica per i sorteggi dei mondiali del 2010. Sentiamo allora gli accoppiamenti. Abete si augurava un girone semplice, magari senza la Serbia, ed è stato accontentato. Paraguay, Nuova Zelanda e Slovacchia sembrano davvero un bel regalo di Natale per gli azzurri di Marcello Lippi. L'unico problema poi è arrivare dal Paraguay, di Roque Santa Cruz, mentre gli All White, visti in Confederations Cup, e la Slovacchia del pur forte napoletano Hamsik, dovrebbero essere semplici sparring partner. Curiosi incroci per Inghilterra, altro gruppo abbordabile con Algeria e Slovenia, che ritroverà gli Stati Uniti, capaci di eliminarla dal suo primo mondiale nel 50, e Argentina, che ritroverà Grecia e Nigeria come nel 94, più la Corea del Sud. Se per i britannici e i sudamericani, soprattutto per Maradona, il sorteggio sembra un segno del destino, gli spagnoli si ritrovano in un gruppo di matrice ispanica con Cile e Honduras, clamoroso 1-1 proprio contro le Furie Rosse, nell'unico mondiale degli honduregni nell'82, più la mina vagante svizzera da non sottovalutare. Nessun problema sulla carta per la Germania di Ballack con Australia, Serbia e Ghana. Pochi per l'Olanda di Snyder, affronterà Danimarca, Giappone e Camerun. Moltissimi per il Brasile di Kakà, che dovrà invece giocarsi il posto con la Costa d'Avorio di Drogba, in Sudafrica per puntare al titolo, e con il Portogallo dell'altro madridista Cristiano Ronaldo. L'Italia esordirà il 14 giugno proprio qui a Cape Town contro il Paraguay, 3 giorni dopo la gara inaugurale tra Sudafrica e Messico. A proposito di Bafana Bafana, a loro è toccata la Francia. Sembra che la retrocessione per il Mani di Henry sia diventata una punizione solo per la Rainbow Nation. Stefano Piazza, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cape Town. Oggi si parla dappertutto dei gironi, è tutto un fiorire di commenti, previsioni, è andata bene, è andata male all'Italia, ma insomma fino a ieri si parlava, per quel che riguarda i mondiali di calcio, soprattutto e ancora una volta di Blatter, il capo della FIFA, della sua gestione che definirei piuttosto furbesca, della mano di Henry, ormai entrata nella leggenda, insomma la mano decisiva nello spareggio tra Francia e Irlanda. Irlanda che già martedì si era resa conto in maniera ormai inevitabile di non avere speranza praticamente di essere ripescata come 33esima squadra ammessa in Sudafrica. Sentiamo su questo proprio Dario Ricci nel GR delle 7 di mercoledì. Al sorteggio della fase finale di Sudafrica 2010, venerdì a Cape Town, ci saranno davvero tutti. Tutti tranne una, cioè l'Irlanda di Giovanni Trapattoni. Battuta sul campo dalla galeotta a mano del francese Henry, frustrata nella proposta di rigiocare la sfida decisiva coi transalpini, Dublino vede respinta anche la sua ultima richiesta, essere ammessa a sorteggio e fase finale come 33esima squadra. Impossibile, spiega il segretario generale della FIFA, Falke. Se dicessimo sì, cosa dovremmo fare con le proteste di tutte le altre escluse? Sarà, ma a noi i fischi del Giovanni Nazionale dalla panchina mancheranno. Senza dimenticare che, se la FIFA deciderà di adottare già Sudafrica 2010 giudici di linea nell'area di rigore, sarà merito anche dell'ingiustizia subita dal Trapp e dai suoi ragazzi. Nonostante gli auspici contenuti nel servizio di Ricci, non vedremo proprio gli arbitri in porta in Sudafrica, nonostante tutto, e questo è in fondo l'ennesimo scandalo legato a Blatter. Intanto, sempre da parte di Blatter, è saltata fuori ieri, se non sbaglio l'altro ieri, un'idea bizzarra e forse anche irritante per l'Irlanda, cioè quella di un risarcimento economico in soldi per la beffa subita dalla Francia. Consoliamoci, per restare al calcio, con il pallone d'oro invece che martedì è stato assegnato per il 2009 a Messi, che secondo me rimane il più forte giocatore del mondo da diversi anni e lo sarà ancora per molto ancora. Sentiamo Massimo Di Scienza. Una pulce in cima al mondo per Lionel Messi, campione che non arriva al 1,70 m, nato a Rosario ma catalano d'adozione, non è stata una vittoria ma un plebiscito con 473 voti sui 480 possibili. Un pallone d'oro annunciato dopo un anno magico in cui Messi ha guidato con classe e fantasia il Barcellona del triplete, campionato, Coppa e Champions League. Cosa ha Messi più degli altri? Lo abbiamo chiesto a un altro pallone d'oro, Luis Suarez. Questa imprevedibilità che c'ha, cioè questa velocità, questi cambi di ritmo, questa tecnica in velocità che lo fa quando sta bene irresistibile in molti momenti della partita. Per il calcio latino un trionfo, dietro Messi il portoghese Ronaldo e due spagnoli, Xavi e Iniesta. Perché il calcio latino piace così tanto? Ancora Suarez. Sono giocatori normalmente più spettacolari che non quelli degli altri paesi. Con la stessa tecnica il latino offre qualche cosa di più al pubblico, lo fa essere più spettacolare e poi in definitiva quando ci sono questi tipi di trofei e sono candidati di più perché, ripeto, sono più spettacolari. Ora Messi è favoritissimo anche per il FIFA World Player. In Sudafrica la stella sarà lui, l'obiettivo è regalare all'Argentina un nuovo titolo mondiale, 24 anni dopo Maradona. Chiudiamo tornando a casa nostra perché questa sera per il campionato c'è il derby d'Italia tra Juve e Inter. Inutile soffermarsi su questa partita che ha tantissimi significati anche extra sportivi. Finora però il grande protagonista, in attesa di vedere come finirà sul campo, è stato un giocatore che invece non giocherà neppure e forse al massimo andrà in panchina. Sto parlando di Mario Balotelli. Dario Ricci, mercoledì mattina. Ma quale Londra? Ma quale Arsenal? Mario Balotelli dall'Inter non si muove, almeno fino a giugno, poi si vedrà. La parola e la faccia la mette il presidente nerazzurro Massimo Moratti in persona. Balotelli non è sul mercato e non sarà sul mercato, quindi questo in assoluto. Ma che la guerra di logoramento tra Super Mario, lo spogliatoio e Mourinho debba arrivare almeno a una tregua, beh, proprio Moratti è il primo a rendersene conto. Poi lì sempre da aggiustare fra lui, l'allenatore, la squadra e il comportamento, ma questo dovuto anche all'età, ci vuole una certa continuità di abitudine a vivere assieme ai compagni, assieme all'allenatore, con certe regole. Intanto Juventus-Inter di sabato si avvicina, la convocazione di Balotelli è più che in dubbio, ma si discute comunque su come reagire a possibili cori razzisti. Il presidente del CONI, Gianni Petrucci. I regolamenti parlano chiaro, io non so perché si dibatte se sia necessario interrompere o meno le partite. Le regole del calcio già lo prevedono quello che si deve fare, per cui si applichino le regole e si facciano meno dichiarazioni. Siamo arrivati alla fine, ricordo la mail ottavogiorno@radio24.it. Ringrazio Valerio Rocchetti in regia e vi rimando a sabato prossimo alle 9 oppure in replica alle 23 sempre su Radio 24.